24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti in questo istante, ben ritrovati a 24 mattino. Vi ricordo i nostri sms al 349-238-6666 per scriverci, oppure la mail 24mattino@radio24.it. Ed è il momento di parlare un po' di economia. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah Rosciani, ben ritrovata. Buona giornata a tutti quanti, anche a te naturalmente. Oggi è una giornata molto importante perché tra tre quarti d'ora, alle 9, si riunisce il Consiglio dei Ministri. È il Consiglio dei Ministri in cui c'è il tanto atteso decreto per affrontare, soprattutto in quei settori in crisi, l'auto, i mobili, gli elettrodomestici. Ci saranno insomma delle importanti novità. È il secondo pacchetto anticrisi, diciamo, dopo quello di dicembre. Che molti italiani attendono. Chissà quanti, questa è una cosa interessante quello che hai detto, perché ieri è stato diffuso un sondaggio, una ricerca condotta da una società che si chiama Interactive Market Research, che ha fatto sapere che il 56,5% degli italiani ha diminuito l'utilizzo dell'auto a motivo della crisi economica. Il 75% degli italiani interpellati dichiara invece che non è il momento di cambiarla, per cui è una cosa molto interessante. Insomma, cercheremo di capire effettivamente quanto potrà mobilitare risorse anche il pacchetto anticrisi che stamattina il governo vorrebbe varare. Si tratta, appunto, come diceva Alessandro Milan, di aiuti per l'auto, per gli elettrodomestici e i mobili. Sono ovviamente apparsi in questi giorni sulla stampa tutte le ipotesi a tappeto e i numeri dei possibili benefici che andranno ai consumatori. Vi do solamente magari un paio dei punti allo studio del governo. Fino all'altro ieri, per esempio, l'ipotesi era di garantire 1.000 euro di bonus e esenzione dal bollo auto per 3 anni per chi rottama la propria auto Euro 0, Euro 1 e Euro 2, e contemporaneamente acquista una nuova auto Euro 4 o Euro 5. Stamattina c'è sulla stampa, a quanto pare, una modifica di questa versione. Il bonus potrebbe salire a 1.400 euro, ma cancellerebbe l'esenzione del bollo. C'è anche poi tutto il pacchetto, appunto, per elettrodomestici e mobili. Però ci interessa capire intanto quante risorse sono necessarie per affrontare una manovrina di questo tipo e dove ha intenzione anche di prendere questo denaro il governo. Dino Pesaro del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevamo, un pacchetto da 1 miliardo, 1,5 miliardi di euro. E tra l'altro in qualche maniera sottratti anche agli enti locali. C'è un po' di bagarre tra il governo, appunto, e le regioni. Ci fai un po' il punto della situazione da questo punto di vista? Poi con Paolo Landi della Diconsum faremo invece il punto singolo magari dei provvedimenti per capire quanto potrebbero mobilitare i consumi. Dino. Sì, si tratta sostanzialmente, come dicevi tu, di un decreto che vale circa 1 miliardo, 1,5 miliardi. Allora, come il governo pensa di far fronte a questa nuova spesa che segue, diciamo, gli altri interventi che già sono stati messi in campo? Allora, per buona parte si pensa di far fronte con diciamo un meccanismo di autocopertura, che sostanzialmente sarebbe questo, già utilizzato peraltro in precedenza. E attraverso il maggior gettito IVA che dovrebbe auspicabilmente derivare dalla rottamazione, quindi dagli incentivi che dovrebbero spingere gli italiani ad acquistare automobili oppure a cambiare il proprio frigo, la propria lavatrice, ci dovrebbe essere un impatto positivo sull'IVA, e attraverso questi maggiori incassi tributari si dovrebbe far fronte a una parte almeno del costo. Il resto, che poi sarebbero, come dire, le risorse fresche, vive, che ammontano a 400-500 milioni, dovrebbero, e da qui appunto il nuovo confronto con gli enti locali, dovrebbero essere utilizzati dal fondo delle aree sottoutilizzate, cioè il famoso FAS, che poi sono sostanzialmente fondi europei destinati alla formazione, sono fondi che però vanno sostanzialmente alle regioni. Quindi si tratta di aprire un nuovo capitolo, un nuovo confronto con gli enti locali per vedere se si può utilizzare almeno una parte. Fermo restando, e questo è l'ultimo aspetto della questione, poiché oggi in Consiglio dei Ministri verrà anche approvato l'aggiornamento del programma di stabilità che l'Italia sta per inviare a Bruxelles, ebbene l'aggiornamento dei conti italiani vede il PIL, cioè la ricchezza prodotta dal nostro paese quest'anno, in caduta del 2%, quindi meno 2%, con un deficit che arriverà al 3,7%. Quindi da qua la preoccupazione del ministro Tremonti di cercare di incidere il meno possibile sui conti. Allora, andiamo invece al provvedimento ancora più nel concreto. Abbiamo già spiegato teoricamente come dovrebbe, come potrebbe funzionare per l'auto. Ci sono gli incentivi anche per quello che riguarda la rottamazione di moto e motorini, e poi parlavamo anche delle detrazioni fiscali per l'acquisto di elettrodomestici, un'agevolazione che sarebbe legata alle ristrutturazioni dell'abitazione in cui si vive, riguarderebbe appunto anche elettrodomestici bianchi, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, tra l'altro elettrodomestici bianchi che avevano già un incentivo fiscale. Paolo Landi, segretario generale della Diconsum, buongiorno, tra l'altro appena uscito dalla RAI da un'altra trasmissione, quindi stamattina lo facciamo un po' sbizzarrire su temi diversi. Qual è la valutazione delle associazioni dei consumatori sui provvedimenti che il governo intende varare questa mattina? Quale potrebbe essere a vostro avviso il ragionevole impatto sui consumi? Ma è evidente che di fronte a una recessione, di fronte a una crisi dell'occupazione, le famiglie rinviano i propri acquisti, e quando si rinvia l'acquisto dell'auto, l'acquisto del frigorifero, che non sono, come dire, indispensabili. Se arrivano dei provvedimenti, delle agevolazioni, è chiaro che possono, come dire, indurre molte famiglie a sostituire la macchina, a sostituire il frigorifero, cosa che avrebbero rinviato. E quindi certamente potrà portare un beneficio a tutte quelle imprese che oggi sono in crisi. Però occorre dire una cosa molto semplice, che finisce per essere un anticipo di un acquisto, quindi non è che sono risolutive del problema, semplicemente possono, come dire, tamponare il problema oggi, ma rinviano nel futuro un discorso di minore acquisto in futuro. Quindi francamente bisogna tener conto anche sempre di questo dato. Inoltre un'altra cosa importante: si giustificano questi provvedimenti soprattutto legati al problema inquinamento. Bene, se l'inquinamento è il criterio, diciamo, con cui vengono date queste agevolazioni, allora dobbiamo dire con estrema chiarezza che queste agevolazioni devono riguardare soprattutto i veicoli piccoli e non i grandi veicoli che inquinano molto di più, perché in caso contrario si rischia di affermare un principio, una ragione e una giustificazione che poi non è questa. Quindi nella pratica qual è la contestazione che muove, dove sarebbe necessario fare un intervento se si riferisce al settore delle autovetture? È chiaro che devono riguardare le veicoli utilitarie e non i grandi, i SUV o le auto di grande cilindrata. Queste agevolazioni dovrebbero essere limitate soltanto alle auto di piccola cilindrata, che come noto sono quelle che inquinano meno. Se invece è il pretesto, come dire, dell'inquinamento per dare un'agevolazione a tutti, allora si deve dire con estrema chiarezza. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa importante: si dice sempre dell'inquinamento come un elemento fondamentale. Però oggi il consumatore, se va a vedere il proprio libretto per cercare com'è classificato il proprio veicolo, non trova che è Euro 4 o Euro 5. Allora anche qui c'è un bisogno di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'informazione al consumatore sull'inquinamento del proprio veicolo, che oggi non è assolutamente, come dire, facile da sapere. Spesso uno compra un veicolo pensando che sia Euro 4 o Euro 5 e invece non lo è. Beh, insomma, anche questo è un aspetto molto interessante. Immagino che qualora questo provvedimento di stamattina partisse, come credo che sia nelle carte, ci si porrà anche poi in futuro questo problema. Dino Pesole diceva, Paolo Landi, è un provvedimento sì sicuramente interessante, che darà una scossa ai consumi, però poi rinvia, come dire, il problema di questi nel tempo. Però credo che proprio l'intervento del governo si voglia muovere sulla rapidità della scossa per i consumi stessi, anche se giustamente Paolo Landi diceva tutti gli incentivi dovrebbero valere solo su acquisti effettuati entro la fine di settembre 2009, però il tema è muoversi immediatamente, mi pare di capire. Il tema è muoversi immediatamente, certamente a mio avviso il governo fa bene a provare a dare una scossa ai consumi. Teniamo però presente che questa è la situazione che stanno vivendo gran parte dei paesi europei e non solo, come sappiamo, un po' tutti stanno provando a stimolare i consumi. E si è aperta anche a livello europeo nelle ultime riunioni dell'Ecofin una discussione sulla efficacia in termini proprio fattivi, pratici, dei cosiddetti stimoli all'economia. E qui il discorso è molto, diciamo, molto semplice. In una fase in cui domina l'incertezza, perché ovviamente questa è la situazione attuale, è ben difficile che diciamo, il consumatore sia indotto a spendere. Quindi certamente l'incentivo incoraggia, non assicura di per sé che questo avvenga, Dunque, questa che il governo si appresta a decidere è una manovra, secondo me, doverosa, ma è una scommessa. Cioè, ecco, occorre verificare sul campo da qui ai prossimi mesi se ci saranno i margini effettivi per rilanciare la domanda. La domanda è piatta, lo è stata peraltro anche diciamo l'anno scorso e anche nel 2007, cioè noi abbiamo comunque già avuto delle agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni IRPEF che in qualche modo miravano a spingere i consumi, ma i consumi sono rimasti sostanzialmente piatti, il che vuol dire che questa è una tendenza, diciamo, di lungo periodo. Per invertirla ci vorrà del tempo, certo, questo è forse un primo passo. Tra l'altro, questa contrazione della domanda legata ai beni durevoli ha portato anche ad una drastica modifica della faccia dei prestiti nel nostro paese. Paolo Landi, lo scorso anno, proprio per il crollo del mercato dell'auto, sono crollati i prestiti cosiddetti finalizzati, a vantaggio invece di tutte quelle formule di prestito personale. Quindi la famiglia italiana rinvia un acquisto ma ha bisogno di liquidità per arrivare alla fine del mese. Secondo lei, nel pacchetto che il governo vara questa mattina, visto che mi sembra che questa ipotesi è stata accantonata, sarebbe necessario intervenire anche nel settore dei prestiti? Ma guardi, sulla questione dei prestiti bisogna fare grande cautela. Noi nel passato abbiamo denunciato con forza tutti quei prestiti che dicevano acquista oggi e comincia a pagare fra un anno, perché questi deresponsabilizzano il consumatore, perché dopo un anno il consumatore si trova, come dire, a pagare delle rate che magari non aveva assolutamente previsto. Quindi bisogna andare molto molto cauti. Certo, se ci sono delle agevolazioni sui prestiti, anche questo è un modo per favorire, per incentivare una ripresa dei consumi e quindi evitare una cassa integrazione che rischia di essere molto pesante nel settore manifatturiero. Però c'è un'altra riflessione anche da fare, che qui a forza di provvedimenti di urgenza ed emergenza come questo, noi andiamo esattamente nella direzione opposta a quello che sarebbe l'esigenza di uno sviluppo del paese. Mi spiego meglio. Paolo Landi, purtroppo non ho tempo di farglielo spiegare, però siccome noi ritorneremo su questo argomento nei prossimi giorni, allora magari le prometto che la risentiremo e faremo una considerazione a più ampio raggio, che stamattina non ci è permessa per questione di tempo. Comunque la ringrazio per essere stata con noi e a presto. Grazie, arrivederci. Grazie a Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum, e a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Alessandro, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Non resta che vedere alle 9 che succederà. Alle 12? Alle 12 abbiamo una partita di polizze vita distribuite negli anni passati dalle Poste Italiane, che avrebbero in pancia titoli tossici. Adesso le Poste propongono una trasformazione di questi prodotti, ma le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. Benissimo, tra poco noi parliamo di eurofannulloni in Europarlamento, i nostri parlamentari. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. I medici potranno denunciare gli immigrati irregolari dopo averli curati, la più importante novità nel pacchetto sicurezza approvato ieri al Senato. Contrarie le associazioni mediche, la Chiesa, le associazioni di volontariato, no anche dal presidente dell'Ordine Amedeo Bianco. La vicenda Eluana Englaro: non dovrebbe arrivare il decreto del governo per impedire che si interrompa l'alimentazione alla ragazza. Il testo è pronto, ma il Quirinale avrebbe fatto trapelare la propria contrarietà. Un insolito discorso d'addio dell'ambasciatore americano in Italia Ronald Spogli, che oggi torna negli Stati Uniti. In Italia c'è troppa burocrazia e corruzione, ha detto Spogli. Siete un paese a rischio di declino. Infine una notizia di nuoto: tempi duri per Michael Phelps, mattatore alle Olimpiadi di Pechino con 8 ori. La federazione americana lo ha sospeso 3 mesi dopo che Phelps è stato immortalato su un giornale mentre fumava marijuana. Ha deluso molte persone la motivazione, in particolare le centinaia di migliaia di bambini che guardano a lui come un modello e un eroe. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio alle insolite parole dell'ambasciatore americano in Italia. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. L'ambasciatore americano Ronald Spogli ha dato ieri un addio polemico, molto polemico, all'Italia. Dopo 3 anni e mezzo trascorsi a Roma, durante la presidenza Bush, verrà sostituito presto da un diplomatico scelto da Barack Obama. Spogli, californiano con un nonno di Gubbio, ha detto che l'Italia è un paese in declino, con troppa burocrazia e molta corruzione, e si meraviglia che ci sia così poca consapevolezza del fatto di essere agli ultimi posti nelle classifiche di competitività. Dovremmo avere il coraggio, dice poi Spogli, di puntare su tre grandi università e di dare loro uno statuto speciale e incentivi mirati. Non possiamo dare torto a Spogli sulla gravità dei difetti del nostro paese. Avremmo solo preferito che fosse stato così schietto e sincero anche negli anni in cui è stato per l'America il principale interlocutore dei nostri governi. Insomma, un po' meno diplomatico prima, non adesso. Adesso è un po' tardi. Spogli è stato un grande ambasciatore, speriamo che come altri suoi predecessori rimanga legato al nostro paese non solo per la sua origine italiana. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli che ritroveremo lunedì mattina alle 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Sono i più pagati, tra indennità varie e stipendio prendono circa 35.000 euro al mese, almeno questo stando alle cifre oggi pubblicate in un'inchiesta che è la prima pagina, la copertina dell'Espresso, onorevoli eurofannulloni. L'inchiesta sugli eurodeputati, gli italiani sono i più pagati, come detto, ma anche i più assenti e i meno produttivi. Questo almeno giura l'Espresso nell'inchiesta firmata da Emiliano Fittipaldi, che è con noi. Emiliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci sono anche due europarlamentari, immagino, pronti a difendersi. Sono Vito Bonsignore e la senatrice Adriana Poli Bortone, che saluto, ma Emiliano Fittipaldi, partirei da te. Insomma, l'Espresso che cosa ha fatto? Ha esaminato le sedute dal luglio 2004. È una cosa molto semplice, sì. Che in qualche modo da qualche mese dovrebbe essere trasparente a tutti grazie alla relazione Cappato, ossia che prevede praticamente la pubblicazione di tutti i dati di presenze e non soltanto a Strasburgo e a Bruxelles per quanto riguarda le sedute plenarie, che però sono gli unici elenchi che possiamo avere, ma anche per quanto riguarda il lavoro in commissione. E quindi siamo andati a contare praticamente tutte le sedute plenarie che in un particolare periodo di tempo si sono tenute. Abbiamo tenuto, diciamo, come periodo limite il 15 gennaio del 2009 e abbiamo calcolato la percentuale di presenze che ogni parlamentare ha avuto in quel determinato periodo di tempo. Dico così, i calcoli sono molto complicati perché della delegazione italiana, cioè su 78 deputati, 30 sono andati via prima del termine, quindi diciamo i calcoli sono stati molto difficili. Abbiamo scoperto che, un po' come la tradizione, anche in questa legislatura gli italiani raggiungono a stento il 70% delle presenze. Dunque, cioè, siamo ultimi? Soltanto, diciamo, due volte su tre. Siamo ultimi sostanzialmente in classifica. Siamo ultimi, esattamente. C'è qualche paese, diciamo, dell'est appena entrato che pure non ha dei grandissimi temi di percentuali, ma rispetto ai grandi stati siamo assolutamente indietro. Tra l'altro voglio ricordare che sul sito dell'Espresso c'è un database per cui voi mettete il nome, il cognome, o meglio, dell'europarlamentare italiano e vi vengono fuori tutte le percentuali. Io ne ho alcune. Gianni De Michelis, per esempio, al 51% di presenze, una su due. Giovanni Procacci, 55%. Lilli Gruber, perché ci sono anche quelle vecchie. Lilli Gruber, 58% di presenze. Oppure c'era anche Michele Santoro, che adesso, come sapete, come Lilli Gruber è tornato a fare giornalista, 57% di presenze. Mercedes Bresso, 59%, oggi presidente della regione Piemonte. Alessandra Mussolini, 48%, meno di metà delle sedute. Adriana Poli Bortone, oggi senatrice, 34% di presenze. Senatrice Poli Bortone, buongiorno. Esagerato. Insomma, non lo so, non parta contestando le cifre, no, qua c'è Fittipaldi, se no. Ma si immagini se non voglio contestare le cifre. Ma indubbiamente io trovavo assolutamente scomodo fare il deputato europeo da meridionale, perché per arrivare a Strasburgo io dovevo prendere tre aerei. Io soffro di otite. E quindi a un certo punto non ce la facevo veramente più. Senatrice, quindi, però mi scusi, nessuno non l'hanno obbligata a candidarsi, no, all'Europarlamento. Ma non le sto dicendo che sono obbligata, le ho detto solamente che l'ho trovato abbastanza scomodo perché non mi ero evidentemente reso conto di quello che avrei della dovuto fatica. Affrontare. Della fatica, ma no, soprattutto della impossibilità di prendere tre aerei in un giorno e di riprenderli dopo due giorni, perché soffro di otite cronica, per cui non sempre riuscivo ad affrontare una cosa del genere, ma dico, ho scelto a questo punto di ritornarmene in Italia in modo da lasciare ad altri che avessero più assiduità di me o la possibilità di stare. Vabbè, sembra quasi una giustificazione un po' come a scuola, mi scusi senatrice, no, cioè dire no, c'ho il certificato, non stavo. Però no, lei pone in realtà un tema interessante, Fittipaldi, poi voglio andare da Bonsignore, del fatto che moltissimi italiani europarlamentari vedono l'Europarlamento come un qualcosa in cui provo poi e poi non mi trovo bene, non ce la faccio. La senatrice ci ha spiegato che ha dei problemi anche di salute, che non può prendere troppi aerei e quindi tornano in Italia. Cioè viene visto così come un tentativo, un parcheggio, un che cosa? Fittipaldi. Come, insomma, come un posto per i big, per i leader dove andare a svernare. Questa è una cosa che ovviamente succede soltanto per gli italiani. Noi abbiamo un turnover pazzesco, ho calcolato ovviamente tutti quanti i paesi, noi siamo andati via in 36, perché a volte quelli là che poi sostituiscono quelli che se ne sono andati, a loro volta stanno pochi mesi e tornano un'altra volta a casa. Questo ovviamente con un danno spaventoso agli interessi del paese. Nell'Europarlamento si decidono cose importanti, vengono emendate tutte le decisioni della Commissione europea, c'è il braccio di ferro tra gli stati o all'interno dei gruppi, non è un giochetto, ci sono commissioni importanti come quella degli affari economici, quella del bilancio. Se uno in continuazione utilizza l'Europarlamento come se fosse un albergo, ovviamente lascia lavori a metà, lascia relazioni, certo, che rimangono incompiute. Si decidono, non tra l'altro, c'è, diciamo, un'attenzione giusta. Sì, tra l'altro si decidono cose importanti. Ieri, per esempio, se ne è decisa una. Sapete che l'Italia è in prima linea, il caso Battisti, ridateci Battisti. Ieri c'è stata la risoluzione in seduta plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. 46 voti a favore, 8 contrari, 0 astenuti. La somma fa 54, 46 più 8, se mi aiuta la matematica ancora, anche se mi sveglio alle 5 del mattino, insomma 54 presenti. Onorevole Vito Bonsignore, al 55% di presenze, questo secondo il database dell'Espresso, l'inchiesta di Emiliano Fittipaldi, cioè un po' di più di una su due. Vito Bonsignore, buongiorno, lei come si giustifica? Buongiorno. Come si giustifica, se ha qualcosa di cui giustificarsi? Ma guardi, questi numeri messi lì secondo me sono la dimostrazione di non conoscere i meccanismi di lavoro al Parlamento europeo. Perché il lavoro non si svolge solo con la quantità di schiacciate dei pulsanti. Bisogna andare a vedere allora che cosa ogni singolo parlamentare fa lì dentro. Sì. Queste sono le sedute plenarie, cioè quelle. Questi sono il numero di votazione, si parla sui numeri di votazione. Ed è il fatto. Dopodiché ognuno di noi ha dei compiti. E andare a vedere quante volte io ho schiacciato il pulsante è assolutamente riduttivo e dimostra di non conoscere come avviene la vita lì dentro. Allora il giornalista dell'Espresso è invitato da me a stare un giorno intero con me quando sono lì e magari, se vuole, a seguirmi tutto il mese. Sì. E le spiego il mio mese di adesso, a cominciare da oggi. Io oggi dovrei partire per il Libano. Dopodiché guiderò io la delegazione dei popolari in Libano. La prossima settimana, guidata dal mio presidente Dolle, andiamo a Mosca. Dopodiché siamo 7 giorni con una delegazione guidata da me nei paesi del Golfo. Sì. Dopodiché una delegazione guidata da me andiamo in Marocco. Però, tutto entro il 26. Mi scusi, onorevole. Venga con me a vedere. No, come va bene, lavoriamo. Ma Fittipaldi magari verrà volentieri. Però onorevole Bonsignore, il dato di fatto, il nudo numero è che i finlandesi le assemblee plenarie sono presenti al 90% dei voti e gli italiani mediamente al 67-68% sono i più assenti, cioè anche i finlandesi andranno in missione, anche i finlandesi faranno, no? Voglio dire, lo stesso. Scusi, Fittipaldi non sa quanti gruppi di lavoro io presiedo tutte le settimane, non sa quali sono le mie deleghe ed è un lavoro che per un giornale come l'Espresso non è fatto bene. Avrebbero dovuto approfondire di più. Fittipaldi, che replichi, insomma, queste. No. Ovviamente non ci potevamo mettere ogni membro del Parlamento è all'interno di una commissione. Alcuni addirittura sono subcommissari di più commissioni, quindi abbiamo soprattutto quei numeri che il buon signore cerca, cioè la presenza nelle commissioni di lavoro, sono praticamente assolutamente segreti, nel senso che bisognerebbe, Marco Cappato ha chiesto di fare un rapporto apposta per cercare di capire la vera produttività, ed è stato bocciato insomma da molti italiani. È stato bocciato la PDL, guarda casa, che è un partito tra cui Forza Italia, a cui il buon signore appartiene da qualche mese, perché lui era dell'UDC, per questo poi c'è un passaggio spaventoso di parlamentari tra un partito e un altro nel corso della giustizia. Vabbè, ma questo stato... sì. Vabbè, comunque, insomma, anche se uno vota un proprio rappresentante del Parlamento che poi cambia partito, non è proprio il massimo. Noi non abbiamo soltanto contato le presenze in seduta plenaria. Noi abbiamo cercato, per i pochi dati che siamo riusciti a trovare, quelli delle relazioni e quelli degli interventi in aula, cioè abbiamo cercato di dare anche una sintesi della produttività, e anche qui non è che né Bonsignore né, diciamo, i suoi colleghi ci fanno una gran figura. Le relazioni sono un testo importante, non interrogazioni piuttosto inusi, ma sono delle relazioni, diciamo, di indirizzo che possono anche emendare, diciamo, le scelte della Commissione. Ecco, noi abbiamo, se consideriamo tutti quanti gli europarlamentari che sono andati via e tutti quelli che sono entrati successivamente, stiamo parlando di un esercito di 76 persone, abbiamo fatto meno interventi e meno relazioni dei 6 eurodeputati. Secondo l'Espresso io leggo 61 deputati, eurodeputati, non hanno mai presentato una relazione, 17 non si sono mai scomodati ad aprire bocca in assemblea, leggo proprio testuale dall'inchiesta di Emiliano Fittipaldi. No, noi facciamo così, io mi devo fermare, senatrice Poli Bortone, devo dire che la sua spiegazione, insomma, sull'otite cronica, che per carità, cioè, voglio dire, le facciamo, insomma, i migliori auguri da questo punto di vista, però ha suscitato un po' un vespaio di sms a dire, ma insomma, non è obbligatorio fare questo lavoro, prendere 3 aerei, quindi si può non fare anche, no? Io le devo dire che mi sembra molto strano un dato che comunque del quale non si parla mai. Innanzitutto io avrei lavorato un po' sul sistema dei trasporti in Italia, ecco, perché quello semmai è un dato anche da vedere e da risultare. Io d'altra parte, considerato l'esperienza, che è stata indubbiamente molto bella, perché io per esempio ho portato a termine una relazione che poi è diventato un regolamento europeo sui claims nutrizionali e salutistici, e quella è stata una cosa interessante. Avevo il dossier sull'obesità quando poi ho interrotto per la campagna elettorale qui in Italia, quindi diciamo che sono delle cose indubbiamente molto interessanti. E questa, diciamo, no? la sua esperienza positiva che porta dall'Europarlamento. Comunque, leggetevi l'Espresso, se volete andate sul sito a digitare il cognome del vostro parlamentare, europarlamentare, e scoprirete tutto, almeno secondo questo database. Io ringrazio, ma riesteremo a parlare dei costi della politica. Allora, 8:49 minuti, mamma mia che messe di messaggi contro le spiegazioni che ci ha dato la senatrice Adriana Poli Bortone. Saluto Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, buongiorno Cazzullo. Buongiorno. Poco fa abbiamo parlato di Europarlamento, vedrai sull'Espresso, insomma, c'è un'interessante inchiesta sull'assenteismo oggi. La senatrice Adriana Poli Bortone al 34% ci ha detto che, avendo l'otite cronica, non può prendere gli aerei, e quindi è stata un'esperienza chiusa così. Oltreoceano sappiamo che Obama invece ha detto mettiamo un tetto ai manager, e poi sulla politica americana, insomma, i costi della politica sono molto minori. Per esempio, il presidente americano guadagna 310.000 euro, il presidente della provincia di Bolzano, Durvalder, guadagna ben di più, circa 30.000 euro in più. Allora Cazzullo, tra l'altro ne hai parlato ieri in un interessante editoriale sul magazine del Corriere della Sera, che messaggio diamo come costi della politica in Italia quando Obama guadagna meno di Durvalder? Ma la cosa che più sconcerta è la totale indifferenza al tema che i politici stanno dimostrando e a cui si sta facendo anche l'opinione pubblica. La risposta che ti danno, quando anche privatamente, conversando poi nella questione, è che questa sarebbe una questione populista, è proprio un errore culturale. È esattamente vero il contrario, cioè nel momento in cui si chiedono sacrifici ai rappresentati in un momento di crisi economica molto grave, i rappresentanti dovrebbero dare un segno, un simbolo, un segnale di sensibilità. Per chiedere sacrifici bisogna avere una certa autorevolezza morale, no? non mi pare che la classe politica italiana in questo momento l'abbia. Ed è diventata proprio impermeabile al tema, forse è colpa anche nostra, onestamente a me capita ogni tanto di seguire i politici in giro, in campagna elettorale, non è che vengono avvicinati da persone che chiedono conto del loro operato, è più facile che vengano avvicinati da clienti o aspiranti tali che chiedono un posto per il figlio, chiedono un piccolo favore, probabilmente se sono... È colpa anche nostra, insomma, cioè è colpa del... Anche perché mi pare di capire che stiamo assistendo a un arrocco della politica. Negli anni tra 92, 93, 94 ci fu una grande pressione dell'opinione pubblica anche attraverso il referendum per un cambiamento del sistema e sono gli anni in cui abbiamo avuto l'elezione diretta dei sindaci, i collegi uninominali, insomma in qualche modo i cittadini contavano di più. Ora la politica si è arroccata, abbiamo un Parlamento nominato dalla segreteria dei partiti, c'è una certa indifferenza crescente e vedremo sicuramente l'alto astensionismo che ci sarà alle europee confermerà questa tendenza e quindi i politici vanno l'impressione di poter fare quello che gli pare. Altri dati, altri confronti, un governatore in media, ci sono poi differenze, in California guadagna di più che nel Maine, ma un governatore americano, chi governa uno Stato, guadagna in media 88.000 euro, il 30% in meno di un consigliere regionale della Lombardia, cito la Lombardia, ma insomma più o meno, questo ce lo disse il professor Antonio Merlo che è negli Stati Uniti da 20 anni e che fa proprio comparazione e studia gli stipendi dei politici americani. Poi sapete che ci sono anche i parlamenti degli Stati, non quello federale ma degli stati, un parlamentare dell'Alabama guadagna $10 al giorno, vabbè una cosa simbolica insomma. Invece Cazzullo quando insomma parli con i ministri o con i rappresentanti di governo, con i rappresentanti dell'opposizione, i politici, c'è come ricordi tu la risposta prima a dire e quanto guadagni tu, quando cioè c'è questa sorta di arroccamento insomma. Ho imparato anch'io a dare la mia risposta, che è la verità, poi meno di un terzo di quanto guadagna un parlamentare, che magari a volte è un politico di lungo corso, molto navigato, che può anche dare un contributo importante all'amministrazione del paese, più spesso è l'assistente del politico di lungo corso che è stato nominato, appunto inserito ad ufficio nelle liste, quindi parlamentare. Ne abbiamo 1000, che sono tanti. Ora, io non mi scandalizzo per il costo della politica perché so bene che il vero problema è un altro, è il fatto che la politica sta diventando la prosecuzione degli affari con altri mezzi. L'indennità parlamentare è una sorta di acconto su quello che poi è il vero introito, quello appunto degli affari. In Sicilia non c'è clinica convenzionata con la regione, quindi pagata con i soldi pubblici, che non abbia il suo politico o la sua figlia, politico, la sua moglie, nel consiglio di amministrazione. Quindi questo è il vero scandalo. Ma infatti negli Stati Uniti, per esempio, altra grande differenza, c'è il divieto assoluto di cumulare un solo dollaro in più mentre si fa politica. Si fa il politico, non si fa nient'altro. Io ringrazio anche Aldo Cazzullo per essere stato con noi. Guardate, torneremo su questo tema perché la senatrice Poli Bortone ha scatenato una valanga di messaggi, insomma, non molto, alcuni per niente gentili, per carità, e comunque non molto soddisfatti della spiegazione sull'otite cronica del 34% di presenze all'Europarlamento. Ma ci fermiamo qui. Tra poco Giuliano Ferrara, si torna a parlare del caso di Eluana Englaro, 800 24 00 24. Grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. 24 Mattino e Radio 24.it. A lunedì.